poi in fondo al cuore. Oh, oh, oh, oh. L'amore mio sei tu. È stato all'improvviso. Così, oh, oh, oh. L'amore è tutto qui. L'amore è già finito. L'amore viene e va. Un po' di dispiacere. Dopo passerà. Due occhi più blu del blu. Domani ritroverò più belli dei tuoi. Lo so, è sempre così. L'amore è tutto qui. Due occhi più blu. Sempre così.